presenta Focus Economia di Sebastiano Barisoni. 17:13 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo della Popolare di Vicenza da un lato e delle audizioni nella commissione bicamerale sui crack bancari, perché oggi è stata una giornata sui due fronti. Da un lato si è aperto ufficialmente con l'udienza preliminare il processo a Vicenza, e da questo punto di vista un processo che ascolteremo anche le dichiarazioni dell'associazione dei correntisti, noi che credevamo nella Popolare di Vicenza. Udienza preliminare, dicevo, del processo sul crack della banca che ha coinvolto 120.000 risparmiatori e mandato in fumo 6 miliardi di euro. Nel frattempo però continuano le audizioni in commissione bicamerale presieduta da Pier Ferdinando Casini, e domani arriverà proprio Gianni Zonin ad essere ascoltato, perché la sua era stato posticipato, adesso rianticipato, mentre il direttore generale Sorato è stato stralciata la sua posizione per motivi di salute. La posizione di Sorato sarà valutata dal GUP poi l'11 gennaio per quello che riguarda il Tribunale Vicenza, ma domani verrà ascoltato Zonin dalla commissione bicamerale, non dal Tribunale di Vicenza. Nel frattempo c'è anche il calendario per quello che riguarda l'audizione di Federico Ghizzoni, ex numero uno di Unicredit, citato nel libro di Ferruccio De Bortoli come colui a cui si rivolse l'allora ministro e attuale sottosegretario Mariana Boschi per chiedere un interessamento per comprare la Popolare Etruria. Questa mattina in commissione bicamerale è stato ascoltato il responsabile della vigilanza d'Italia, della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, il quale ha detto sostanzialmente: noi abbiamo fatto non abbiamo né incoraggiato né tantomeno favorito la Popolare di Vicenza ad acquisire la Banca d'Etruria. E su questo ne parleremo dopo, però insomma io ricordo che tutti i giornali ne scrissero e non ci fu mai una smentita dalla Banca d'Italia, che chiaramente opera non facendo comunicati e chiedendo formalmente a un banchiere di comprare un'altra banca, ma da sempre opera attraverso incontri riservati, facendo la moral suasion e quant'altro. Ma quando i giornali lo scrissero, e poi ne parleremo, e ricordo che agli atti c'è anche il fatto, la critica della Banca d'Italia alla Popolare Etruria per non avere preso in considerazione l'offerta della Vicenza, non per non averla accettata, per non averla presa in considerazione. Vabbè, comunque Barbagallo dice questo e dice anche: noi abbiamo siamo stati incalzanti con le quattro banche, ma non possiamo sostituirci ai manager. E va bene, questo sarà l'argomento dalle 18 in poi, anche perché oggi la procura di Arezzo, che indaga su Banca Etruria, ha chiesto ai colleghi della Popolare di Vicenza un atto relativo proprio all'inchiesta sulla Popolare di Vicenza. L'apertura del programma invece chiaramente sarà, vi hanno già aggiornato i nostri GR24, ma insomma su quello che è successo in Austria e soprattutto se o no vi sia un'emergenza gas. Allora lo stesso numero uno dell'Eni, Descalzi, a metà giornata ha detto: non c'è emergenza gas, i prezzi potrebbero salire. Vedo che, e lo ha fatto per primo il ministro Calenda, oggi ha legato insomma la difficoltà in cui va l'Italia per un problema che non abbiamo creato noi, ossia l'esplosione che è stata poi seguita da un incendio questa mattina nell'impianto di distribuzione del gas in Austria a Baumgarten, Andermark, confine con la Slovacchia. Si sono interrotti i flussi di gas della Russia verso l'Italia. Lo confermano anche da Gas Connect Austria, e insomma la parte che arriva verso l'Italia. Non dovremmo avere problemi perché ci sono gli stoccaggi, però faccio notare che Calenda ha detto: ecco, questo è quello che capita quando tu dipendi sostanzialmente da due grandi gasdotti, quello che arriva dall'Austria e quello che arriva dall'Algeria, ed è il motivo per cui è importante il TAP, il gasdotto che arriverà dall'Azerbaigian, per diversificare le fonti d'accesso. Cosa volete che vi dica? Calenda oggi ha annunciato anche che verrà dichiarato lo stato di emergenza. cioè, quando si ragiona a freddo, perché poi l'Italia è sempre il paese delle emergenze, e si dice per mesi, ha senso rompere le scatole per 100 ulivi magari malati che vengono spostati e rimessi lì solo per far passare il tubo 10 metri sotto e poi tutto viene rimpiantato? Adesso vedo che c'erano le manifestazioni la settimana scorsa contro il gasdotto TAP, anche senza gli ulivi di mezzo, quindi non si vuole il gasdotto, anche se non lo vede nessuno, anche se la costa, diciamo, di parte, per fortuna non buona parte, ma parte della Puglia è stata devastata non dai gasdotti, ma dall'abusivismo edilizio, dall'edilizia selvaggia, andate a farvi un giro per la costa e ditemi se è tutta, diciamo, se sono tutte isole vergini. E tu stai parlando dell'interesse nazionale, non solo dell'interesse dei pugliesi a usare il gas, ma dell'interesse del paese. Ecco, adesso facile fare la battuta, ma la battuta la faccio: ma bruciamo gli ulivi a sto punto per riscaldarci se manca l'approvvigionamento, non perché la TAP sia operativa, ma perché te la dice lunga sulla miopia di chi per 100 ulivi blocca. Ho visto un attacco ai cantieri anche ieri, cantieri videosorvegliati, per un gasdotto che manco lo vedi, c'è in pianura padana, non se ne accorge nessuno, è sottoterra, ok? Poi, ho capito, in Puglia fa la meno freddo, non me ne frega nulla, poi però, quando c'è un'esplosione in Austria, iniziamo a dire che siamo in emergenza e ricorriamo alle scorte. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Parleremo anche di Melegatti, perché la produzione è di nuovo ferma, nonostante la campagna di Natale diffusa dai social, compro il pannolo Melegatti, non solo ha prodotto 1,5 milioni di vendite, ma molte catene della grande distribuzione che hanno deciso di fare spazio sugli scaffali dello storico marchio veronese stanno denunciando il fatto che i consumatori continuano ad andare al supermercato e chiedono di comprare il pannolo Melegatti che è finito o in alcuni casi non si riesce ad approvvigionare. Quindi vorremmo capire come mai l'azienda abbia di nuovo fermato la produzione e tutto rientra nel piano, è fatto con il tribunale. Però forse si poteva aspettare qualche giorno in più prima di mandare in cassa integrazione. Il ragionamento fatto fu che i pandori prodotti in questo periodo sarebbero andati sugli scaffali a gennaio, quando vanno in sconto a bassissimo prezzo, quindi non erano convenienti per la produzione. Ma sta di fatto che c'è stato un movimento anche spontaneo di persone che, quando tocchi il posto di lavoro e dei dipendenti della Melegatti, si sono messi volutamente a comprare solo Pandoro Melegatti. Anche di questo parleremo, come della borsa, appunto 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, la TAP è un gasdotto di transito, quel gas passa dall'Italia, non è per l'Italia. Ma che cavolo dice, cara ascoltatrice, mi sembra una donna, che cavolo dice? Basta con queste cose lette alla Dick of Dog in giro sulla rete. La TAP è un gasdotto che servirà anche altri paesi, e infatti noi smisteremo il gas anche per altri con un piccolo guadagno, ma servirà anche all'Italia. Ma la vogliamo finire di raccontarci balle per non ammettere che l'idea di un'opera infrastrutturale in questo paese fa sempre venire di volta stomaco, poi però tutti pronti a piangere quando esplode un centro in Austria, e adesso come facciamo con il freddo alle porte? E basta! Ho detto, usiamo gli ulivi. Allora, la borsa, dicevo, meno 0,03% invariata a Milano per quello che riguarda i titoli. Tenaris più 3%, Saipem più 2%, Jux più 1,80%, Mediaset più 1,5%, Eni più 1,30%, come Steam Microelectronics l'1,1% lo guadagna Moncler. E anche Fineco Bank negativa, Biperbanca meno 3,60, UBI meno 3,30, Ferragamo meno 3, Banco BPM meno 2,20, Snam meno 1, come Atlantia e Unicredit. Euro su dollaro a quota 1,17 e 27. Andiamo sulle altre notizie di carattere internazionale. Ancora per quello che riguarda l'Austria, adesso vi arriveremo. Bitcoin, la BlackRock, che è il fondo azionario più importante al mondo, dice che i prezzi dei bitcoin sono da bolla, siamo in una zona estrema, il superamento dei 16.000 dollari moltiplicando il valore dei bitcoin per 17 volte ha raggiunto quotazioni da bolla finanziaria. La Gran Bretagna, l'inflazione britannica cresce un altro po' al 3,1%, il livello più alto da 6 anni, e è il massimo da 6 anni, appunto, e la Banca d'Inghilterra sta cercando come riportarla al 2%. Restano stagnanti i redditi medi delle famiglie con un incremento dei salari del più 2,2%, però c'è una battuta d'arresto nella corsa al rialzo dei prezzi delle case in Gran Bretagna, avviata verso la Brexit. In media c'è stato un calo dello 0,5%, che non cancella la corsa del 4,5%, però insomma ci si sta interrogando sul fatto che se la Brexit possa creare anche un problema al mercato immobiliare britannico. Ancora per quello che riguarda Facebook, qui c'è una ottima notizia che speriamo diventi anche, o crei l'effetto domino su tutti i grandi gruppi della rete. Facebook passa a una struttura di vendita locale nei paesi in cui è presente un ufficio che fornisce supporto alle vendite nei confronti degli inserzionisti locali. Che cosa vuol dire? Che va a contabilizzare finalmente i ricavi laddove li realizza, e non a Dublino o come fanno altri in Lussemburgo. E voglio che valga anche per tutti gli altri, Amazon, Microsoft, chi abbiamo messo? Apple, Microsoft, Amazon, Google, UX, Airbnb, e ne abbiamo visti in questi anni, in questi mesi. Quindi pagherà le tasse localmente, cioè se c'è una struttura che fornisce supporto alle vendite degli inserzionisti, i ricavi pubblicitari realizzati da questo team locale non saranno più contabilizzati nella sede internazionale di Dublino, grazie a Graziella, ma dalla società presente in quel paese. Ottima notizia, anche perché ricordo che ha versato Facebook, pur ricavando in Italia 225 milioni di raccolte, l'anno scorso ha pagato 260 mila euro di tasse in tutto in Italia. Amazon ne ha pagati 3 milioni, Twitter ha pagato 170 mila euro di tasse in Italia, Airbnb Italy ha pagato 60 mila euro di tasse, cioè un medio professionista italiano paga più tasse di tutta Airbnb. TripAdvisor, che naturalmente non si prende in Italia, non la usa nessuno, ha pagato 20 mila euro di tasse con questo giochetto. Cioè meno, diciamo, di un piccolo professionista, di un piccolo artigiano in un anno. E stiamo parlando di TripAdvisor. Con Amazon invece non si è chiarito nulla nell'incontro fumoso con i sindacati. Si riattiva l'agitazione sindacale sul trattamento dei dipendenti di Amazon. Allora, qualcuno mi dice perché si arrabbia. Mi arrabbio, voglio dire, insomma, quando leggo delle cose che non hanno nessun senso solo per informazioni raccolte così. Ma dai. Allora, io non ho detto che la Puglia sia rovinata, qualcuno mi scrive, ma anche Madonna ci va in vacanza. Ho detto semplicemente che non mi potete dire che la costa pugliese viene rovinata da un gasdotto che viene interrato 10 metri sotto il suolo e gli ulivi ripiantati lì, quando per mia testimonianza ci sono tratti della costa pugliese, così non mi arrabbio, rovinati dai pugliesi stessi, da alcuni investimenti fatti male anche di carattere imprenditoriale che possono essere andati male, ma anche da abusivismo e quant'altro, ok? E piani regolatori fatti così. Va bene? Allora, siamo seri, per favore. Andiamo a vedere la cosa, prendiamo l'autostrada, diciamo, da Bari fino giù a Lecce, e mi dite se è tutto perfetto, tutto un gioiellino, tutto, diciamo, rovinabile con un tubo sottoterra. Allora, l'Italia, la manovra, ha detto il ministro Poletti che è in arrivo l'emendamento sull'ape social e poi sui contratti a termine, dopo la richiesta di ieri del presidente dell'INPS Boeri di valutare se non limitare il numero di rinnovi del contratto a termine, perché altrimenti di fatto è un lavoro che si stabilizza, ma rinnovando i contratti a termine. Poletti ha detto se ci convince che è un intervento utile, andiamo alla sostanza delle cose, non c'è una chiusura ideologica. Credo che sia un tema sul quale vale la pena fare un approfondimento, bisogna capire bene quali sono gli impatti di una eventuale modifica, ma io credo che, come sempre, quando c'è una discussione aperta su un tema vadano valutate concretamente le condizioni di fatto, e se ci si convince della utilità le cose si possono fare. Quindi oggi c'è una discussione aperta perché in Parlamento è stato presentato un emendamento in questo senso. Io credo che la cosa giusta da fare tra il governo e il Parlamento sia un dialogo, un approfondimento, e poi insieme assumere una valutazione. Bisogna fare questo approfondimento, ma io la mia valutazione è che bisogna guardare bene qual è la dinamica che si è realizzata nel tempo. Quindi un approfondimento in questo senso, e se ci convinceremo insieme al Parlamento che intervenire su questo tema è utile, non c'è nessuna, come posso dire, chiusura ideologica. Qui bisogna guardare alla sostanza delle cose, sulla base della valutazione di merito si prendono le decisioni. Questa riflessione è aperta e quindi la stiamo facendo. Di opinione direi quasi opposta il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, che sempre a margine dell'assemblea di Assofondi Pensioni, da cui appunto al microfono la nostra Alessandra Schepisi, è intervenuto anche il ministro Poletti, ha detto, ma sempre al microfono di Alessandra Schepisi, il dibattito sui contratti a termine non mi sembra una grande priorità. Non mi sembra, come dire, la grande priorità, la grande soluzione per aprire al mondo del lavoro una grande stagione di inclusione e fare del lavoro una grande centralità di attenzione paese. Riguarda chiaramente prevalentemente la prossima legislatura, riguarda il dibattito attuale, ma mi sembra che questo non risolve alcunché. Se poi dobbiamo perdere tempo e concentrarci su questa cosa, significa evidentemente ci sono altre sensibilità di priorità. La vera priorità è il cuneo fiscale e un grande piano shock di inclusione giovani, se ci vogliamo lavorare. Se invece pensiamo che il lavoro si realizza riducendo i contratti a termine, facendo altre cose, smontando delle riforme, evidentemente stiamo portando il paese, diciamo, verso un'altra strada. Noi non lo condividiamo. Oh, parliamo adesso del gas e lo dico con un sorriso, rispondo anche a un ascoltatore, dice: ma allora sei duro, con il gasdotto si rovinano i fondali per sempre. Il gasdotto chiaramente che deve passare in Puglia. Allora, caro ascoltatore, col massimo rispetto, io sarò anche duro, ma lei sa quanto è il diametro del tubo del gasdotto che deve rovinare per sempre i fondali? Quanto è di diametro sul tubo? Glielo dico io, 90 centimetri, cioè a casa mia un metro e mezzo. Se lei mi vuole dire che roviniamo per sempre il fondale per un metro e mezzo, va bene. Cioè, fondale che notoriamente è rispettatissimo, che non è mai successo nulla, per carità. Allora non facciamo i gasdotti che passino nel mare, facciamo i gasdotti che passino sopra il mare. Pensa che bello spettacolo, un gasdotto che sta a 2 metri o no, 10 metri sopra il mare. O non facciamo tucuri i gasdotti, facciamoli solo passare dove c'è la terra, sul principio che si può rovinare, bucare la terra ma non rovinare il fondale. Stiamo parlando di un tubo del genere. Quindi voglio dire, stiamo parlando di quasi un metro, più la parte di ingombro, perché se non ricordo male cioè, il tubo si sorregge, no? Perfetto, a voler dire un punto, un metro e mezzo, stiamo parlando di un metro e mezzo che rovinerebbe per sempre, ammesso che sia vero ma non mi risulta, i fondali in quel metro e mezzo. Allora, Sissi Bellomo, adesso non voglio parlare del TAP, voglio parlare di quello che è successo in Austria e poi ascolteremo anche Davide Tabarelli, se riuscirà a raggiungerci, forse no. Sissi Bellomo, adesso 24 ore, buonasera. Sì, buonasera. Allora, sto spiegando, ti ripeto a tutti, ho capito che 90 centimetri non sono un metro e mezzo, sto solo dicendo che i 90 più quello che è l'ingombro classico, è considerato intorno al metro e mezzo tra tubo e resto, ok? Immaginate un metro e mezzo, per non dire che siano sui 90 centimetri, se questo è il problema. Comunque, Sissi Bellomo, che cosa è successo e qual è il punto in questo momento a Baumgarten Andermark? E poi dopo il meteo e la pubblicità invece il tema dell'approvvigionamento, prego. Che cosa è successo? È ancora poco chiara la situazione, anche se si sta indagando sulle cause dell'incidente di questa mattina, e proprio da questa incertezza deriva la difficoltà nel fare previsioni su quello che succederà nei prossimi giorni. Comunque sia, questa mattina all'improvviso c'è stata un'esplosione in quello che è uno degli hub principali per il gas in Europa, Baumgarten in Austria. Da questo hub, da questo crocevia del gas, passano anche la gran parte delle forniture di gas russo dirette in Italia, e sappiamo quanto siamo ancora dipendenti dal gas russo, quanto sia importante per far funzionare il nostro sistema allo stato attuale, quindi senza polemiche con nessun ascoltatore o nessuna opinione in campo. E questo incendio ha provocato purtroppo la morte di una persona, il ferimento di un'altra 20 persone, hanno estinto finalmente le fiamme, stanno cercando di capire i danni. Un conto e se sono danni limitati a piccoli compressori che magari creeranno problemi di approvvigionamento a qualche paese in Austria, un conto è se fosse danneggiata e richiedesse quindi una lunga manutenzione una grande stazione di compressione che ostacolerebbe quindi i flussi di gas russo verso l'Italia. Tutto questo è ancora in fase di accertamento. Se durerà poco, la situazione non è particolarmente grave, anche se il governo ha dichiarato lo stato di emergenza ufficialmente, ma questo serve proprio a liberare una maggiore quantità di gas dai nostri stoccaggi, dalle nostre riserve, per cui era un atto tecnico dovuto, non vuol dire che stasera moriremo di freddo nelle nostre case. No, no, ma per carità. Allora, dopo il meteo, invece, appunto la prospettiva... è un gasdotto che è quello che parte da Urengoi. Ho avuto anche la fortuna di visitare questa simpatica località in mezzo alla Siberia, Novi Urengoi, ed è un gasdotto storico realizzato tra i tempi ancora dell'Unione Sovietica, dalla Snamret Gas, che appunto fa Siberia, Mosca, poi va giù Ucraina, e infatti era al centro, ricorderete, delle tensioni quando ci furono gli scontri armati tra Ucraina e la parte indipendentista appoggiata dai russi. E tra l'altro però Baumgarten è anche il terminale, oltre che di quel gasdotto che collega la Russia all'Europa, con altri gasdotti secondari che portano il gas a Francia, Germania, Europa dell'Est, e grazie al Trans-Austria Gas Pipeline TAG all'Italia, alla Croazia e alla Slovenia. Per farci capire, è quello che sfocia a Tarvisio e che dà a noi il 30% del nostro fabbisogno del gas. Quindi il 30% dei fornelli che si accendono, uno su tre, o per chi avesse il boiler, dell'acqua che consumate, arriva da Tarvisio. Giusto per far capire a tutti a che cosa serve sto gas. Meteo. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Your touch is hard to breathe, throw it down and come to the sea. 17:42. Dunque, Sissi Bellomo, a questo punto tu dicevi non c'è un problema chiaramente nell'approvvigionamento immediato, e lo ha chiarito bene il ministro Calenda, così come il numero dell'Eni Descalzi e anche della Snam, hanno detto che il sistema è sicuro, garantito da stoccaggi. La Snam ha chiarito che l'Italia, l'ho detto il ministro legato Marco Alverà, ha la capacità di stoccaggio tra le più alte al mondo, 12 miliardi di metri cubi di gas a fronte di un mercato di 70 miliardi di metri cubi. Calenda appunto ha dichiarato però lo stato di emergenza. Noi oggi abbiamo avuto un incidente, c'è stato un incidente in un punto di snodo del gas in Austria, tale per cui abbiamo un problema serio di forniture, in particolare sul tracciato austriaco che poi è quello che viene dalla Russia. Abbiamo una grande concentrazione di gas che prendiamo dalla Russia. Il TAP, cioè il gasdotto che va dall'Azerbaigian all'Italia, serve a questo, a diversificarlo, questo fornitura di gas. Il TAP è, me l'avete sentito dire 100 volte, un tubo di un metro di diametro che passa 16 chilometri sottoterra, ok? Scavato con una talpa che non tocca la costa, gli ulivi che spostiamo vengono ripiantati e spiantati e ripiantati. Sotto c'è uno stato di, diciamo, pseudo guerriglia urbana, tanto che alcuni intellettuali hanno invitato al sabotaggio di questa roba qua. Emiliano ha fatto ricorso al TAP pure su questo e l'ha perso pure su questo. Ora oggi, se noi avessimo il TAP in funzione, non dovremmo dichiarare, come faremo oggi, lo stato di emergenza per questa mancanza. E vabbè, sarò noioso, ma io condivido tutto quello che ha detto il ministro Calenda, che abbiamo appena sentito. Ovviamente il TAP non sarebbe mai stato pronto oggi, anche se non vi fossero state le proteste. Però è per far capire a che cosa serve un gasdotto. Io ho sbagliato in una cosa, mi ricordavo 10 km sottoterra, Calenda giustamente cita il dato esatto, 16 km sottoterra in alcuni momenti. Comunque, Sissi Bellomo, a questo punto tu già iniziavi a dire, beh, se il danno è un danno minore e non è nel pompaggio, la situazione è diversa, ce lo puoi riarticolare? Sì, certo. Il problema vero è che non sappiamo quanto dureranno i problemi a Baumgarten, che come spiegavamo prima è veramente come se fosse capitato un incidente in un grosso snodo autostradale. Immaginiamoci un camion messo di traverso e non sappiamo quanto tempo ci vorrà a riparare la strada. Questa strada virtuale, immaginaria, è la strada più grande che porta il gas russo da noi. Una strada secondaria, per restare nella metafora, che è un altro gasdotto che passa dalla Svizzera, da Passo Griest, ha una capacità di trasporto dimezzata in questo periodo e fino al 2019, perché ci sono degli importanti lavori di manutenzione. Quindi abbiamo avuto una doppia sfortuna sul mercato. Abbiamo le vie d'accesso al gas dal nord, che sono una per il momento totalmente ostruita e vediamo quanto dura, e l'altra ristretta a una carreggiata sola. Spero che in questo modo sia chiaro. Se riescono, sì, a liberare, cioè, si è creato un incrocio, si è creato un imbuto di fatto. Si è creato una strozzatura a cui le altre vie di importazione, alle quali manca per esempio il TAP che è ancora in via di costruzione, non riescono a supplire del tutto. Per questo motivo dobbiamo prelevare gas dagli stoccaggi, che per fortuna sono molto pieni, che per fortuna sono molto abbondanti, come ricordavate, come ricorda giustamente Snam, e quindi non dobbiamo temere di rimanere a freddo, però è chiaro che se attingiamo gas dagli stoccaggi, ma dovessero restare bloccate a lungo le vie d'accesso via tubo, che sono le più immediate, dovremmo a un certo punto cominciare per esempio a importare più GNL, gas liquefatto. Ma non è una cosa immediata come via tubo, visto che dobbiamo comprare una metaniera, una nave. Sì, aspetta, che devo correggere Calenda, perché allora, vabbè, anche Calenda intanto si sbaglia. Come avevo chiarito prima delle cose, il gasdotto TAP passa, è lungo 90 centimetri più altri, insomma, di ingombro si direbbe in chiaro, che è più o meno un metro e mezzo. Anche se il tubo ha un diametro di 90 centimetri, è più o meno un metro e mezzo questo sui fondali, passa a 10 metri, a quello che mi risultava, 10 metri sottoterra, Calenda ha detto 16, chiaramente se è sbagliato lui non c'è problema, passa a 16 metri sottoterra, non 16 chilometri, qualcuno mi sta dicendo, guarda che Calenda ha detto 16 chilometri, sì, adesso... è chiaramente un refuso da questo punto di vista, non possono essere 16 chilometri, 16 chilometri sono una cifra dove forse Jules Verne vi sarebbe arrivato. Però detto questo, passa non a 10 metri come avevo detto io, ma a 16 metri sottoterra, difficile vederlo. Grazie a Sissi Bellomo, nel senso che ci hai chiarito che se si sblocca la strozzatura, bene, ma... se no potremmo avere anche qualche problema. Qualcuno mi dice, ecco, perché non abbiamo fatto i rigassificatori, altro che... Posso far notare che c'era un progetto sissi di un rigassificatore della British Gas a Brindisi che poi è saltato perché gli hanno messo ostacoli di ogni livello, perché non si voleva il rigassificatore a Brindisi. Rigassificatore è quella roba che per cui tu porti il gas liquefatto e poi lo rigassifichi, lo riporti allo stato gassoso, lo puoi trasportare per nave, sì. Sono un altro sistema che abbiamo per rispondere a eventuali emergenze, a flessibilità. Il problema è che i nostri rigassificatori, quello di Rovigo, funziona a grandissimo ritmo e non può fare di più al momento. È pieno a tutti gli slot prenotati per le navi. Quello di Panigaglia, in Liguria, è vecchio e può accogliere solo metaniere piccole. Poi c'è l'Olto di Livorno che stiamo profumatamente pagando in bolletta, che continua a essere vuoto, speriamo a giorni che arrivi qualche carico. Il tema è comunque che servono i rigassificatori, ma servono anche rotte diverse dei tubi. Certo. Per ordinare il gas liquefatto, per comprare una metaniera piena di gas, ci vogliono almeno un paio di settimane da quando la trovi, la compri e te la fai arrivare. Certo. E soprattutto la devi pagare cara, perché in questo momento anche in Asia i prezzi del gas liquefatto sono molto alti. Se vogliamo avere il gas liquefatto da noi, dobbiamo avere prezzi più alti che battano l'Asia. Ormai ci siamo con la tensione che c'è in questo momento sui mercati. Quindi quello che stai dicendo, Sissi Belloma, è che anche se tu avessi un rigassificatore, il problema è che poi ordinare la nave che arrivi ti ci vogliono un paio di settimane e vai sul mercato disperato e quindi ti fanno i prezzi che vogliono. Tra l'altro lo stesso Calenda proprio un anno fa ricordava come avere un ulteriore accesso non solo Algeria e non solo Nord e non solo Russia, Ucraina, ti permette di andare a trattare poi con più agio, di dire guarda che compro da te però posso comprare anche dall'altro. Invece così siamo sempre, non lo so, mi sembra così banale, eppure va bene. Allora, grazie anche a Sissi Belloma. Ho il traffico, poi vediamo se la riesco a fare la Mele Gatti, se no la faremo domani. E invece faccio la borsa, perché poi voglio parlare di Popolare di Vicenza e della commissione bicamerale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Ma quanto è buono il Pandoro Mele Gatti! Mele Gatti, per un Natale d'oro. Questo era lo spot del Pandoro Mele Gatti del 2004 che Barbara Bianchi gentilmente ha recuperato. Allora, da questo punto di vista, Barbara Ganz del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Noi stiamo cercando anche il fondo nella figura di Luca Quaggini, che ha rilevato il gruppo Mele Gatti. Però detto questo, due stabilimenti, San Giovanni del Patato, San Martino Buon Albergo, inaugurato lo scorso febbraio con 10 milioni euro di investimento, 90 dipendenti fissi, 220 stagionali, ha venduto 1,5 milioni di pandori, poi adesso di nuovo è ferma lo stabilimento. Ma la cosa interessante su cui ti volevo avere è il fatto che in realtà la grande distribuzione fa notare che grazie al passaparola anche in rete continuano ad arrivare richieste da tutta Italia di comprare il Pandoro Mele Gatti, ho capito bene? Sì, la richiesta c'è in effetti, c'è stata una grande ondata di solidarietà per questo marchio che è storico. Loro hanno prodotto 1,5 milioni di pandori, ma non potevano fare di più, perché questo è esattamente quello che il Tribunale li aveva autorizzati a fare. Il Tribunale con il quale c'è una procedura di ristrutturazione del debito in corso, per cui nessuno si aspettava che l'azienda sarebbe stata messa in salvo da questa mini campagna natalizia. Hanno fatto male i conti, però adesso l'assurdo è che l'azienda si è rifermata perché il Tribunale di Verona aveva detto ok, fate questo 1,5 milioni e poi vi rifermate, ma se ho ben capito ci sarebbe ancora domanda. La domanda c'è, però l'azienda va fondamentalmente messa in sicurezza da un rischio fallimento perché non è ancora stata rilevata. Per cui loro hanno fatto quello che il Tribunale li ha autorizzato a fare, hanno dato un segnale importante di continuità di un marchio che è appunto storico, e adesso si fermano per preparare una campagna pasquale per la quale il fondo di investimento ha messo ancora più denaro a disposizione rispetto a questa mini campagna natalizia che era comunque iniziata in ritardo. Certo. Loro hanno dovuto farsi spazio sugli scaffali che erano già pieni di pandori e panettoni. Allora facciamo una cosa, Barbara, perché la vicenda mi interessa molto, ma non tanto perché io tifi Hellas, cosa nota, dico perché mi interessa proprio il marchio, il tentativo di recupero, anche c'è tutto dentro questa storia. Ci sono due famiglie che litigano, il passaggio generazionale che in Veneto ha fatto tanti di quei danni che metà bastavano, e però c'è anche il tentativo di raccogliere dei fondi, la capacità o meno di questo fondo riuscirà a farci. Io ti ridò appuntamento a domani, perché adesso volevo chiudere, e grazie per ora Barbara Ganz, volevo chiudere con la borsa e poi passare a Popolare di Vicenza e le audizioni. Borsa oggi, la giornata è molto molto piatta, quindi Milano più 0,16% per quello che riguarda i titoli, come segnalavo particolarmente bene oggi sul mercato, soprattutto Tenaris più 3, Jux più 1,90, Saipem più 1,80, Moncler più 1,60 come Steam Electronics e Fineco Bank. Tra l'altro ci sono attese per la decisione della Federal Reserve che arriverà domani sera, e il dollaro è tornato leggermente a salire, l'euro si è un po' indebolito. Il fronte opposto invece sulle banche, dopo che la Banca Centrale Europea ha chiesto a UBI maggiore aggressività nel liberarsi delle sofferenze bancarie, soffrono un po' tutte le banche coinvolte, o meglio associate, scusatemi. BPER meno 3,5%, UBI Banca meno 3%, Banco BPM meno 2,21%, cede anche Ferragamo il 2,80%, in assoluto KR Energy più 31%, Prismi più 12%, i migliori titoli, i peggiori la Lazio meno 7,50 e Italian Independent meno 6,30. GR24, e ci sentiamo dopo per parlare dell'inizio dell'inchiesta, dell'inizio del processo a Vicenza e delle prossime audizioni bicamerali. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia, e come annunciato ci occupiamo di banche, nel senso c'è un doppio fronte bancario, perché oggi a Vicenza c'è stata l'udienza preliminare del processo sul crack della Banca Popolare di Vicenza. Lo ricordo, ha coinvolto 120.000 risparmiatori e mandato in fumo circa 6 miliardi di euro, e mentre sull'altro fronte, quello romano, proseguono le audizioni della commissione bicamerale d'inchiesta sulle crisi bancarie. Domani, come quasi coincidenza, sarà la volta dell'ex presidente della Popolare di Vicenza Gianni Zonina. Era stata prima posticipata, poi adesso di nuovo anticipato il suo intervento. Sorato, l'allora direttore generale, invece per motivi di malattia non sarà audito. Domani sarà appunto la volta di Gianni Zonin, mentre l'ex numero uno di Unicredit, Federico Ghizzoni, citato dal libro di De Bortoli come oggetto di interessamento da parte del sottosegretario Boschi per sapere se Unicredit fosse interessato o meno a comprare Popolare Etruria, verrà sentito il 20 dicembre. Questa mattina in commissione bicamerale è stato nuovamente ascoltato il responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo. Allora sentiamo intanto da questo punto di vista Barbagallo stesso, che ha detto sostanzialmente noi abbiamo monitorato da vicino, si riferiva alle quattro banche soprattutto, noi non abbiamo né chiesto né incoraggiato né tantomeno favorito la Popolare di Vicenza ad acquistare Banca Etruria. Abbiamo monitorato da vicino le quattro banche, in questo caso sono appunto Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, ma non possiamo sostituirci la gestione dei manager. L'azione della vigilanza è stata incalzante. Dal 2008 fino al commissariamento sono state condotte 18 ispezioni, equamente distribuite fra le quattro banche. Ai primi esiti negativi di tali accertamenti, la vigilanza ha rafforzato i controlli. I provvedimenti assunti sono stati di intensità crescente, in linea con la gravità dei problemi riscontrati. Sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione, richiedendo piani di rafforzamento patrimoniale, il ricambio degli organi amministrativi e di controllo, l'aggregazione con altre banche. La collaborazione con la Consob, che ha avuto a disposizione a partire dal protocollo del 2012 un flusso continuo di dati economici, patrimoniali e di rischiosità, si è svolta nell'alveo di una prassi generalizzata e degli accordi esistenti, che prevedono comunicazioni di sintesi dell'azione di vigilanza. Le risposte delle quattro banche alle sollecitazioni della vigilanza sono state insoddisfacenti. I rafforzamenti patrimoniali non si sono talvolta nemmeno realizzati. I ricambi degli esponenti di vertice non ne hanno migliorato i comportamenti. La pervicace difesa dell'autonomia ha scoraggiato la ricerca di potenziali acquirenti. Le autorità di vigilanza non possono sostituirsi ai soggetti vigilati, che non va dimenticato sono imprese, per evitare che la situazione degeneri. La vigilanza ha il compito di far emergere i problemi, di stimolare gli interventi necessari affinché essi vengano risolti e non si ripetano. Ma perché ciò accada è indispensabile la collaborazione degli organi aziendali. Allora, restiamo un attimo ancora sulla commissione bicamerale, poi arriveremo al fronte Vicenza, processo a Vicenza. Abbiamo raggiunto anche chi rappresenta gli azionisti truffati e l'avvocato di Zonin. Però saluto e ringrazio per essere con noi, da un lato Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera, buonasera Sara. E dall'altro saluto Fabio Pavesi, che da pochi giorni ha lasciato il luogo fisico del Sole 24 Ore, è andato in pensione, fa il freelance, ma come voi ricorderete ha seguito anche per Radio 24, oltre per il quotidiano, tutti questi anni di vicende complicate. C'è chi diceva ogni volta che c'è Pavesi vuol dire che c'è un casino sul fronte bancario e finanziario. Fabio, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, Sara Monaci e Fabio Pavesi, restiamo appunto sulla commissione bicamerale. Adesso c'è una calendarizzazione abbastanza serrata. Domani Zonin, oggi Barbagallo e poi arriverà invece sul fronte Etruria anche Ghizzoni. Mi sembra che la linea della Banca d'Italia, Sara, sia, per dire, non abbiamo mai incoraggiato quell'operazione, anche se a noi risulta insomma che ci fosse così una moral suasion, e di più non potevamo fare, le abbiamo sempre monitorate, ma insomma non possiamo sostituirci ai manager. Ma allora, ultimamente ci sono questioni quasi di interpretazioni linguistiche, perché la Procura e anche noi giornalisti negli ultimi due anni abbiamo evinto questa, come tu dici, moral suasion, ma a mio avviso era qualcosa di più, è qualcosa che è stato proprio scritto nero su bianco, un incitamento alla fusione tra Vicenza ed Etruria. Leggendo l'ultima ispezione che è stata fatta in Banca Etruria, si legge proprio che Banca Italia sosteneva il fatto che Etruria dovesse aggregarsi ad un polo di elevato standing, mette un punto, va a capo e dice: è proprio il fatto che non si sia aggregata con Vicenza per noi è elemento negativo, perché doveva essere portato a questa ipotesi almeno agli organi consiliari. Quindi la difesa di Banca Italia qual è? Quello di dire: non abbiamo mai detto che dovevano fondersi, abbiamo detto che questa proposta doveva essere portata agli organi consiliari, quindi stigmatizziamo il fatto che in consiglio di amministrazione, esatto, che ci fossero delle persone, questo è quello che abbiamo evinto dalle ultime audizioni della commissione d'inchiesta, il fatto proprio che non se ne fosse parlato, quindi è il metodo. Però oggi parlare di metodo quando c'era una cosa più sostanziale sembra un po', diciamo, una sorta di difesa. Di altro avviso sono gli inquirenti, che ritengono invece che fosse scritto in qualche modo nero su bianco che l'elevato standing e la fusione con Popolare di Vicenza fosse nemmeno troppo implicita nelle carte dell'ispezione di Banca Italia. Allora, tra l'altro oggi la Procura di Arezzo, che indaga sulla Popolare di Etruria, ha chiesto ai colleghi di Vicenza, della Procura di Vicenza, l'invio di un atto relativo all'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza. Però, Fabio Pavesi, qui chiedo aiuto anche alla tua memoria storica, ha ragione a mio avviso Sara, nel senso che, per carità, non c'è mai stata una dichiarazione della Banca d'Italia né del governatore dicendo deve comprare, anche perché la Banca d'Italia si muove in altri modi, più felpati, spinge, fa incontri riservati, l'ha sempre fatto, e dice guarda che forse sarebbe il caso che tu ti comprassi quella banca, ci ricordiamo anche gli ex governatori. Però io non mi ricordo nemmeno, Fabio, in quegli anni una smentita forte della Banca d'Italia quando tutti i giornali e anche il Sole 24 Ore scrivevano e citavano dell'interessamento, del fatto che la Banca d'Italia avrebbe visto di buon occhio che la Vicenza di Zonin, ancora non travolta dal crack azionario e dei risparmi, rilevasse l'Etruria. Ricordo male? Cioè, uno poteva no, anche... affatto. Quello che emerge in realtà è un'excusatio non petita, cioè la linea difensiva di Banca d'Italia si connota per un formalismo direi quasi, come dire, surreale, dimenticando la sostanza delle cose. Hai ragione tu, cioè in genere quando una banca è malata, Banca d'Italia, che ha interesse alla stabilità del sistema, dobbiamo sempre ricordarci, che c'è una funzione di Banca d'Italia che è quella di garantire la stabilità del sistema, è una funzione di Consob a difesa dei risparmiatori. È ovvio, quando la banca è in crisi, Banca d'Italia tende, come dire, a cercare una soluzione salvifica, ma il tema è che qui siamo di fronte a due malati, e i malati erano riconoscibilissimi, perché l'Etruria nel 2011 viene declassata da Fitch a doppia B, cioè perde il rating da investment grade, è unica tra le medie banche italiane. Quindi gli analisti londinesi sì si accorgono che Etruria è messa male, e lì, non so quando è partita la prima ispezione su Etruria, però sono tempi biblici, cioè a me non interessa che Banca d'Italia da cittadino, consumatore, risparmiatore abbia guardato e si abbia mandato i suoi ispettori, a me interessa che cosa succede dopo le ispezioni. Qui stiamo assistendo sostanzialmente a una situazione che è andata lentamente incancrenendosi, i cui segnali erano più che evidenti, perché come fai a pensare che Vicenza offre un euro per comprarsi Etruria nel 2014 quando stanno esplodendo i crediti malati dentro la Vicenza, tenuti coperti per anni da Zolì? Vuol dire che quella proposta è assolutamente grottesca, e stupisce che, come dire, Banca d'Italia non dica nulla, nel senso che da questo punto di vista sembra quasi plaudire a quell'ipotesi, e quindi nella sostanza va a sposare due malati cronici. Ma tra l'altro, come citava Sara, la Banca d'Italia mette per iscritto che il non aver portato a dibattimento l'ipotesi della fusione tra Popolare Etruria e Popolare di Vicenza ha rappresentato una critica nei confronti degli amministratori. Sì, meno male, allora, viene da dire meno male che non è stata portata a dibattimento. No, ma come dici, sì, è ancora più sottile. Quindi dice: noi abbiamo criticato il fatto che non abbiate neanche discusso. Ma di cosa discuti se una è messa peggio dell'altra e le vuoi far sposare? Esattamente, perché se guardiamo Vicenza nel 2014, l'euro-operazione promesso Etruria, che poi sdegnosamente Fornasari e Bronchi rifiutano, Vicenza non aveva nessun mezzo per comprarsi quella banca, ed era evidente la lettura dei bilanci. Anche perché l'estate del 2014 le azioni della Popolare di Vicenza valgono ancora 62 euro e mezzo, a primavera del 2015 inizia a scoppiare il bubbone e perdono già un 40% del valore, vanno a 48 euro. Sì, ma già nel 2013-2014 quei 62 euro era un prezzo iperstellare, che non aveva nulla a che fare con i fondamentali della banca. Ma ripeto, insomma, dalla logica non si sfugge. La Banca d'Italia non può criticare il fatto che non si sia dibattuto nel Consiglio della Popolare di Etruria della proposta di Vicenza, perché vorrebbe dire che non hanno dibattuto una proposta oscena, assurda. Ho il traffico e dopo chiudiamo proprio sulla Popolare di Vicenza. Focus Economia. Per noi oggi comincia un percorso di verità e giustizia. Visto che in questa vicenda verità e giustizia ce ne sono state veramente poche, perché la banca ci ha raccontato un sacco di bugie per un sacco di anni, la finanza lo stesso, le istituzioni che dovevano controllare idem. Non parliamo dei silenzi e delle bugie della politica, che ci chiamava speculatori fino a qualche tempo fa e che adesso vuole pulirsi la coscienza con un fondo per chi sia chi, non si sa in che maniera, da 50 milioni. Ristoro le banche venete non ha ricevuto nessuno. Il fondo che vogliono mettere il governo oggi a fronte delle elezioni è assolutamente insufficiente. Se lei pensa che solo la nostra associazione vale 150 milioni di euro, con 50 milioni cosa facciamo in due anni? Quindi cosa pensa della proposta del governo? Quello che il governo sta portando avanti è un'idea nata in un'assemblea istituzionale fatta dalla nostra associazione, dove avevamo proposto un emendamento con 4 miliardi da estrarre dagli NPL della banca. Questo ci è stato rifiutato e la proposta è un fondo per delle vittime da reato finanziario da 50 milioni. Quindi dobbiamo essere riconosciuti prima come vittime, dopo deve essere riconosciuto un reato e dopo forse ti danno 50 milioni a chi non si sa. Ma stiamo scherzando? Siamo già stati fregati da Zonina, parole, la politica ci frega più. Oh, avete appena ascoltato Luigi Ugone del gruppo Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza, intervistato oggi dalla nostra Livia Zancaner, per quello che riguarda quello che potranno recuperare. Tra l'altro sono 120.000 gli azionisti che hanno partecipato all'ultimo aumento di capitale, alcuni hanno protestato fuori dall'aula del Tribunale di Borgo Berga, e migliaia di persone si costituiranno parte civile, appunto sit-in di protesta oggi, misure di sicurezza rafforzate, sono 3 giorni, oggi inizia la prima per il processo. Le parti civili sono scettiche sui risarcimenti. La nostra Livia Zancaner però ha raggiunto anche Enrico Ambrosetti, difensore dell'ex presidente della Procura di Vicenza Gianni Zonin, che oggi era a Vicenza per l'avvio dell'udienza preliminare. Il dottor Zonin è particolarmente sereno, addolorato ovviamente per questa vicenda, molto addolorato, ma sereno che il processo chiarirà la sua posizione e l'assenza di ogni responsabilità in ordine ai fatti della Banca Popolare di Vicenza. Allora, Sara Monaci, come invece il fronte in magistratura, quindi non commissione bicamerale, che cosa ci porterà nei prossimi giorni da Vicenza a questo punto? No, allora, da Vicenza siamo entrati nel vivo del processo. Le indagini sono state chiuse, lo ricordo, quest'estate ci sono 7 imputati, tra cui i massimi vertici, quindi Zonin, ex presidente e Sorato. Qui i capi di imputazione sono aggiotaggio, lo ricordo, un aggiotaggio un po' diverso, un po' più mite, perché non era una quotata, non era una banca quotata, e sempre ostacolo alla vigilanza, sapendo che a questo punto è anche la stessa vigilanza oggetto, diciamo, quantomeno di osservazione da parte sia degli inquirenti che della commissione d'inchiesta banche. Come andrà? I tempi, diciamo, in queste cose, ahimè, sono sempre un po' lunghi, perché siamo in udienza preliminare, dopo l'udienza preliminare ci sarà o meno una richiesta di, ci sarà un rinvio a giudizio e poi si entrerà nel vivo del processo. Io credo che il rinvio a giudizio io lo darei quantomeno per scontato, poi vedremo nei dibattimenti, diciamo, di primo e secondo, se ci sarà l'appello, comunque, diciamo, proseguirà ancora un po'. Tu vorrei anche Sì, una chiosa soltanto su quello che è stato detto prima. Barbagallo, lo ascoltavamo, ricordava sì che Banca Italia è stata dentro le banche dal 2008, però proprio questo, diciamo, che è anche un punto di domanda, lo crea, perché se siamo dentro una banca dal 2008, ma parlo ad esempio del caso Etruria di cui argomentavamo prima, se poi dal 2008 siamo dentro con un'ispezione, ma nel 2013 si dà l'ok Consob e Banca Italia alle obbligazioni subordinate che hanno creato una serie che di problemi, e poi il commissariamento avviene solo nel 2015, quindi dal 2008 al 2015 ci si poteva quantomeno dare un po' una svegliata, mettiamola così. Vabbè, la mia posizione la sapete, cioè non si può dire semplicemente abbiamo fatto il nostro dovere quando abbiamo avuto un insieme di crack uno dopo l'altro, da Genova, Etruria, esatto, da Vicenza, a Veneto, Monte dei Paschi, diciamo, una vicenda ancora precedente, ma insomma non si può dire semplicemente noi abbiamo fatto il possibile, perché vabbè. Allora, invece Fabio Pavesi, chiudiamo sulla Popolare di Vicenza. Hanno ragione secondo te le parti civili che i risarcimenti saranno molto difficili? Solo una piccola chiosa, quello che è di grave accaduto è che è stato autorizzato, come diceva Sara, gli aumenti di capitale, gli ultimi, quindi 2014-2015, con banche già decotte, e quindi si è perso un gran tempo, e soprattutto si è tirata la patata bollente sul collo dei risparmiatori. Sì, perché tu hai chiesto soldi a Mercatitalia, certo. Era assicurare che le banche non fallissero a qualsiasi costo, quindi a costo anche di vendere alla clientela prodotti ad altissimo rischio. Questo è il vero problema grave che è accaduto. E quindi andiamo sulle subordinate, per esempio, di Etruria. Sì, ma non solo, anche l'aumento di capitale. Banca Marche ha fatto un aumento di capitale da 180 milioni e è stata commissariata l'anno dopo. Chi ha comprato quei titoli per 185 milioni ha visto azzerati in 12 mesi. Sì, ma lo stesso vale anche per l'aumento di capitale della Vicenza. Certo, vale per l'aumento di capitale di quasi tutte le banche. Pensiamo anche a MPS, che ha fatto 4 aumenti di capitale. Cioè lì c'è il tema che la vigilanza non può assolversi dicendo io ho fatto formalmente il mio dovere, perché poi le banche sono crollate a prescindere, e quindi la vigilanza è una vigilanza con le armi assolutamente spuntate. Questo è un dato di fatto oggettivo. Fabio, risarcimenti, che ho scarso un minuto, risarcimenti sì. Ho 30 secondi. Sì, si rischia di avere veramente la miseria, nel senso il problema è anche capire chi è stato veramente truffato, e sono in molti, e chi invece era consapevole, penso ai prestiti baciati, per cui c'è un sacco di gente che era finanziata perché comprava le azioni e non ha restituito il finanziamento, e quindi qualcuno sapeva e quindi forse andrebbe rimborsato, per cui questo discrimine è difficile, lungo, e rischia poi in realtà di mettere alla berlina proprio i più deboli. Allora, grazie a Sara Monaci, grazie a Fabio Pavese, in bocca al lupo per la tua nuova avventura professionale. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.